in primo piano. Buongiorno, buongiorno a tutti, Lionello Mancini, come dicevamo poco fa, ci siamo salutati con Alessandro Milan. Oggi è una giornata in cui si capisce perché esistono i quotidiani e vi invito veramente a comprarne anche più di uno, perché ci sono trattati dei temi molto anche diversi tra loro, c'è un panorama molto completo, ci sono degli approfondimenti molto interessanti e di tipi completamente diversi. Oggi vorrei cominciare la rassegna stampa dedicando tutta la prima parte a dei temi non terremoto, perché anche la pagina terremoto offre degli spunti molto interessanti e ormai si sta andando verso i temi della ricostruzione, delle responsabilità, di quello che sta per succedere. Vorrei dedicare quindi la seconda parte, ci risentiremo, no? Come sapete, dopo le notizie sul traffico, ma la prima parte invece la dedicherei a tutto il resto, cominciando proprio dal resto del mondo. Il Sole 24 Ore porta in prima pagina due commenti, due analisi molto interessanti, una di Carlo Bastasin che riguarda la congiuntura mondiale, la crisi mondiale, perché noi giustamente stiamo parlando da 10 giorni di Abruzzo, ma non ci siamo dimenticati, nessuno di noi si è dimenticato che la crisi mondiale è lì che incombe e non si capisce se c'è una luce in fondo al tunnel o meno. Quindi Carlo Bastasin che scrive, a proposito delle ultime indicazioni giunte ieri, delle dichiarazioni di Obama e dei dati economici, scrive questo sulla prima pagina del Sole 24 Ore: il clima di fiducia dei giorni scorsi si è incrinato, eppure la giornata di ieri non dovrebbe essere interpretata come un episodio negativo, bensì come un momento di lucidità. La crisi è figlia di scorciatoie finanziarie e di analisi sovraeccitate. Era difficile che potesse essere risolta con gli stessi strumenti. Come ha detto Obama, ci sono segni di speranza, ma non siamo fuori dall'acqua alta e nei prossimi mesi, prima di migliorare diversi indicatori, tra cui l'occupazione, potranno peggiorare. Purtroppo, la chimica economica ha le sue leggi, le famiglie e le imprese americane devono ridurre il loro indebitamento e per farlo dovranno continuare a tagliare la spesa. Il processo di riduzione dei debiti richiederà anni, non mesi, di sacrifici e buona politica. Carlo Bastasin, questo ovviamente è solo un breve passaggio, ma vale sicuramente la pena di leggere tutta questa analisi. Ovviamente, essendo i dati pubblici, diciamo così, sono usciti ieri in America, comprese le dichiarazioni di Barack Obama, tutti i giornali ne parlano. Trovo che questa analisi di Carlo Bastasin sia particolarmente importante, perché si riferisce a dei temi generali, cioè su come si e quanto si consuma nel mondo, su quali sono le nostre abitudini e su quanta buona politica e buona economia occorre per uscire dal guado. Sempre sul Sole 24 Ore, sempre inizia da pagina 1, vi leggo solamente il tema perché abbiamo poco tempo, anche se all'interno poi il ragionamento si sviluppa. Comunque Mario Margiocco dice: arrivano da Harvard i manager dal volto umano, e scrive questo, così inizia il suo articolo: Wall Street ha licenziato finora in 2 anni circa 200.000 fra economisti, trader, esperti finanziari, impiegati e segretarie. Le perdite come gettito fiscale saranno per la città e lo stato di New York di circa 8 miliardi nel periodo 2008-2010. Così il flusso di laureati che fino a pochi mesi fa attraversavano il continente e da ogni parte degli USA venivano a lavorare nel cuore finanziario del paese si è molto inaridito. Wall Street era l'investimento migliore per chi aveva studiato sulle ultimissime teorie economiche, conquistando un master o un PhD in economia, vera aristocrazia accademica da 20 anni o un MBA, Master in Business Administration. Ora la domanda è di manager dal volto umano, tecnici ed esperti di ogni tipo preparati sui temi ambientali e nel rapporto industria-risorse naturali. Per qualche tempo Harvard sarà un po' meno Harvard. La corsa Wall Street quest'anno non ci sarà. E poi prosegue appunto all'interno e continua questa analisi di quale è in questo momento la domanda del mercato, anche del mercato finanziario, che tipo di figure sono quelle preferite. Salto sempre a pagina Sole 24 Ore a pagina 36, due notizie, una è solo una curiosità: Francia, addio alle targhe gialle, da oggi i numeri sullo sfondo bianco. chi ricorda le targhe francesi sa che appunto sono le ultime rimaste con questo colore giallo di sottofondo. Ancora nella pagina fronte un tema che riguarda la 231, la legge ovvero sulla responsabilità delle figure giuridiche, e c'è un articolo di Giovanni Negri, società con maxi responsabilità, gli illeciti colpiti vanno dai delitti informatici all'infibulazione. C'è in pratica una tendenza ad allargare la responsabilità delle imprese rispetto al comportamento di alcune fasce di manager, comportamenti di reato o comunque sanzionabili, e il Sole 24 Ore osserva come questo allargamento si stia facendo un po' troppo largo, si estende a delle casistiche che forse poco hanno a che fare direttamente con il business, e questo rischia un po' di annacquare o di rendere comunque molto difficilmente applicabile al proprio interno questa legge 231. Veniamo alla Repubblica, ricordo come dicevo poco fa che del terremoto parleremo soltanto dopo. Allora, Repubblica, abbiamo una grande spazio, ecco qua, giustizia lumaca in libertà 22 mafiosi baresi, mancato deposito della sentenza di primo grado, l'ANM, associazione magistrati troppo oberati. Ecco, questo è uno dei casi che succedono ogni tanto. L'altro, forse lo ricorderete anche per il nome che si ricorda abbastanza facilmente, di questo magistrato, si chiama Edi Pinatto, è stato in servizio a Gela, dove era contemporaneamente presidente di sezione del tribunale, presidente del tribunale, più faceva i processi. In sostanza nel 2000, se non ricordo male, ha emesso una sentenza di condanna di alcuni mafiosi, non è seguita la motivazione della sentenza per ben 7-8 anni, finché questi mafiosi sono stati scarcerati. Ecco un caso analogo che si riproduce, che si ripropone a Bari. Ancora, poi vedremo nella seconda parte degli articoli, come dicevo, che riguardano il terremoto e alcuni aspetti anche abbastanza interessanti del terremoto, quello sulla beneficenza, eccetera. A pagina, eccolo coperto col postino, 53 di Repubblica, Formula 1, fiato sospeso sui diffusori. Oggi la sentenza che pesa sul mondiale. La Ferrari attacca e mette in difficoltà Brown e la FIA. Quindi oggi ci dovrebbe essere questa decisione se il diffusore, cioè questo aggeggio montato sul posteriore di alcune auto, è ammesso, è ammissibile oppure no. Lo sapremo oggi e vedremo che cosa cambierà poi nella Formula 1. Il Corriere della Sera parte anche lui da un articolo di fondo sulla questione internazionale e si occupa del dialogo degli Stati Uniti con Iran e talebani. Obama e la mano troppo tesa. Ecco, questo è un punto di vista interessante di Franco Verturini, che dice tra l'altro: Obama ha teso la mano soprattutto all'Iran, accenti di disponibilità, coinvolgimenti diplomatici, segnali non troppo invadenti, in vista delle elezioni di giugno, con la speranza non dichiarata che Ahmadinejad la perda, e infine una proposta negoziale in bella forma. Teheran ha accettato, ma nel contempo ha precisato che i programmi nucleari proseguiranno al pari di quelli balistici, e nulla ha detto delle sue influenze armate in Medio Oriente. Il rischio è ovvio, che l'Iran incassi le concessioni promesse ma non dia nulla in cambio. Ecco, questa è una parte dell'analisi di Franco Venturini su questo aspetto. L'articolo prosegue: effettivamente ogni volta che qualcuno si espone per fare una proposta e in qualche modo passa a una sorta di disarmo, tra virgolette, unilaterale, il rischio indubbiamente c'è. E in questo caso Barack Obama si sta assumendo appunto dei rischi. L'Iran ne approfitterà in senso positivo andando avanti sulla strada del disarmo e della distensione, questo lo vedremo. Secondo Venturini il rischio, insomma, che questo non succeda c'è. La bambina nata 22 anni dopo, in prima pagina del Corriere della Sera, questa fotografia bellissima. Il padre aveva la leucemia, il seme fu congelato. Ecco, a pagina 29 c'è una pagina intera dedicata a Il miracolo di Stella, nata dal seme congelato di 22 anni fa. Il padre è la prova che c'è vita dopo il cancro. È una pagina, io trovo, da leggere. È una storia particolarmente toccante, anche perché il padre, che su suggerimento della madre 22 anni fa congelò lo sperma, la possibilità di procreare, poi effettivamente risultò sterile a causa di cure di chemioterapiche pesantissime che dovete fare, ma guarì e a quel punto decise di mettere al mondo questa bambina. Se vedete la foto, è una foto impressionante per quanto è bella. C'è ovviamente anche il Monsignor Sgrecia, il bioeticista del Vaticano, dice: è un fatto inaccettabile, manca l'atto d'amore. Comunque leggetelo, perché è una storia veramente interessante. Ancora, vediamo che cosa trovo. Sì, sulla pagina del Corriere della Sera, un fatto così più che altro bizzarro. Tolti i libri gay, Amazon sotto accusa. Amazon è questa grande libreria dove si compra solamente via internet, e dice: il caso, esclusi 57.310 titoli da Forster a Vidal, rivolta sul web, poi le scuse. E insomma, questi libri avevano fatto in modo, non è che li avessero tolti, ma che si trovassero più difficilmente, e adesso li hanno rimessi in vetrina in modo che si vedessero. C'è una parte del Corriere della Sera, pagina 20, ovviamente dedicata all'argomento di cui parlava prima Milan e di cui sentirete parlare ancora dopo le 8.30, nuove BR, la pentita Banelli dal carcere a una casa segreta. Era stata condannata per i delitti d'Antona e Biagi, sconto di 3 anni grazie all'indulto, i giudici, secondo noi, si è ravveduta. Ho ancora qualche secondo, vediamo, passiamo allora alla stampa. No, resto ancora sul Corriere, vi segnalo un'altra notizia, pagina 13 del Corriere della Sera. I sauditi dicono basta alle spose bambine. Il ministro della giustizia, età minima 16 anni, pronta la bozza di legge. Dopo le denunce dei giornalisti, attivisti dei diritti umani e teologi del regno sono riusciti a ottenere, diciamo, questa cosa bella, insomma, questa cosa nuova. La stampa, giallo di Valencia e lingotti spariti dalla città dell'oro. È una cosa di cui parlano anche altri giornali. Sarebbero spariti 500 lingotti d'oro. Sapete che Valencia è la città dei gioielli per eccellenza, e sono spariti un colpo da 10 milioni di euro. Un po' romanzato, insomma, comunque c'è stata questa rapina e hanno rubato quest'oro, ma suppongo assicurato, quindi non sarebbe, credo, neanche troppo da agitarsi. A pagina 13 della stampa, un'intervista a Penati sull'Expo. Nei giorni scorsi qualcuno, tra cui, se non ricordo male, Vittorio Gregotti e poi qualcun altro, avevano sollevato dei problemi sull'Expo, ma in questa intervista Penati, presidente della provincia, dice: le doti di Stanca, il nuovo responsabile di questa operazione, amministratore, non si discutono, mi preoccupa che sia ancora in Parlamento. Non fare la rassegna, come aveva suggerito qualcuno come Gregotti, di rinunciare all'Expo, vuol dire perdere una grande occasione di rilancio per Milano. Stavamo guardando un po' la stampa, e dalla stampa, anche se volevo passare subito al terremoto, ma non posso evitare di segnalarvi l'articolo a pagina 18, il figlio del peccato del vescovo presidente. La madre fu sedotta da Lugo quando aveva 16 anni. Bene, Fernando Lugo è il presidente che è stato eletto un anno fa in Paraguay, è un vescovo. Insomma, l'articolo comincia così: mi assumo tutte le responsabilità e riconosco la paternità. Con questo annuncio, che ha sorpreso anche i più stretti collaboratori, con questo annuncio shock, Fernando Lugo, presidente del Paraguay, vescovo sospeso a Divinis per poter abbracciare la carriera presidenziale nel 2008, quindi per far politica, non per fare il padre, ha ammesso davanti a tutta la nazione di essere padre di un bambino di 2 anni, Guillermo Armindo, nato dalla relazione con una ragazza di 25 anni. Un'altra storia straordinaria. Dicevo che oggi sono contento, diciamo, di fare questo lavoro e di farlo nella carta stampata, perché mentre mi ascoltate potete fare il raffronto tra quello che avete sentito in televisione o colto per radio o visto sui siti internet e la ricchezza di storie, di sfaccettature, di avvenimenti che vengono offerti dai giornali e sono anche devo dire, alcuni di questi sono scritti particolarmente bene. Sempre sulla stampa, pagina 27, per dirvene solo un'altra, c'è una immagine di un veliero del 700, no? Del 6-700, e il titolo è uno studio scientifico. Per la verità, l'occhiello dice misteri tra farsa e tragedia. Insomma, quelle latrine esplosive e maledizioni dei mari. Uno storico inglese, le loro esalazioni erano fatali. Ecco perché molti velieri non avevano scampo. Il caso da manuale nel 1665. Sul Tamigi la London, il nome di uno di questi velieri, si inabissò ingloriosamente per un accumulo di metano sotto coperta. Io l'ho trovata anche questa una cosa straordinaria. Se oggi avrò tempo, sicuramente me la leggerò. Allora, torniamo al Sole 24 Ore e, come detto, parliamo di terremoto. Di terremoto. Allora io vi consiglio di andare a pagina 5, pagina 4 e 5, dove ci sono i nostri reportage e anche una rubrica curata da Maximilian Cellino, domande e risposte, la casa crollata non estingue il peso del debito. Cioè, chi vuole sapere se stava per comprare una casa, se l'aveva appena comprata, se stava pagando un mutuo, eccetera, che cosa succede di questa storia, se perde i soldi, se deve continuare a pagare e così via dicendo. Quindi una pagina di servizio, ovviamente servizio del livello che il Sole 24 Ore è in grado di offrire. Il Corriere della Sera riporta in prima pagina un articolo di Alberto Quadrio Curzio, che spesso lo abbiamo letto anche sul Sole 24 Ore, è un economista di primo piano. Il titolo è abbastanza forte: meglio rinviare il ponte di Messina. E parte da pagina 1 dicendo, insomma, il paese sta per andare in una, sta entrando, è entrato in una situazione difficile, e a pagina 40, dove l'articolo ha una situazione difficile a causa del terremoto, della crisi, eccetera, c'è questo passaggio, dice come facciamo a fare una buona ricostruzione. La prima è un problema organizzativo, riguarda la continuità dell'azione di governo. Perché le risorse, ed è questa la seconda condizione di cui parla Quadrio Curzio, non bastano per la ricostruzione. Stando ai casi passati, ci vorranno comunque svariati miliardi di euro. Non potendo aggravare la fiscalità generale, i fondi vanno reperiti con la riduzione della spesa pubblica corrente e con la revisione di alcune priorità del governo, tra cui il ponte sullo Stretto di Messina. Perché dice questo? Dice: senza entrare nel merito di questa discussa opera, se ha dei pregi, se la gran parte del suo finanziamento venisse da capitali, privati e dai ricavi, riteniamo il rinvio a tempi migliori degno di considerazione. Se è vero infatti che l'opera è in ideazione da almeno 4 decenni, allora vuol dire che non è un'urgenza nazionale, mentre gli 1,3 miliardi stanziati dal governo in marzo potrebbero servire in Abruzzo. Questa è la posizione di Quadrio Curzio, che mette in relazione la ricostruzione con le grandi opere infrastrutturali già lanciate nel governo per fronteggiare la grande crisi di cui si parlava prima, la crisi mondiale, e che ora tornano in discussione perché un'altra crisi, questa nazionale, si è inserita ed è quella appunto dell'Abruzzo. Ecco, vediamo ancora all'interno la lite PM Chiodi, siamo sempre in Abruzzo, è il presidente della regione. Il PM dice vuole fermarmi, l'altro dice no, stia meno in TV e faccia di più il suo lavoro. Stanno litigando su che cosa, quale peso dare agli allarmi che nei giorni scorsi sono stati lanciati sulla possibile infiltrazione della criminalità in Abruzzo, divisi anche su mafia e appalti. Il PM: il rischio c'è, il politico no, non c'è nessun indizio. Ecco che Questo è quello che il Corriere ci segnala sulla ricostruzione. Io sto ignorando volutamente un titolo che secondo me, questo sì, l'avete sentito sicuramente tutti in televisione, anzi trovo abbastanza strano che un annuncio di questo tipo venga dato in un programma televisivo, ovvero i giornali, alcuni con maggiore, alcuni con minore evidenza, dicono Abruzzo servono 12 miliardi, le cifre del Viminale. In realtà è una cifra che ha detto ieri sera Maroni parlando a Ballarò. Non so se questo sia il modo di quantificare le necessità economiche di una ricostruzione, però insomma in televisione probabilmente l'avete visto, quindi secondo le stime a Ballarò serviranno 12 miliardi. La Repubblica, anche qui vi segnalo un articolo di Adriano Sofri che riporta una, che riprende da Facebook questo luogo su internet, la lettera di una, di un giovane siciliano che dice: io non darò un euro per la ricostruzione. Non darò un euro, e dice: è scandalizzato perché, dice, perché mi sono ricordato che mia madre, che ha servito lo Stato 40 anni, prende di pensione in un anno quasi quanto Schifani guadagna in un mese, e così via dicendo. Quindi una lettera che pone in primo piano il disagio di molti italiani rispetto a come vengono gestiti i soldi che loro danno, ma conclude Sofri: il risentimento può mettere a tacere la compassione, ma aiutare chi soffre, dice Sofri, è farsi un regalo. Avrei voluto leggervi molte cose in più, forse devo imparare a parlare più chiaramente e più velocemente, ma adesso ridò la linea ad Alessandro Milan.